quella più buona, se va bene, se è quella del K. Aspetta che cambio. Io sono la radio serie. Vai. Guarda, intanto c'è la radio e la stessa, quella che deve essere. Insomma, sì. 920 di segnale. Sì, cosa vuol dire? Sì o no? C'è la radio buona, allora posso levare. Allora, guarda, così ho appena ce l'ho fatto di più. Va bene? Sì, così sì. Ok. Adesso io, guarda, abbasso la potenza. Questa è la potenza numero uno, dimmi quanto scende. Da così a così, quanto è scesa? Com'è? Dimmi qualcosa. 9,5, 9,20. Cos'aretta, eh? Allora c'è un stare così, va bene. La radio confermi che è quella, va bene? Non è abbruttosa, comunque abbastanza forte. No, non è abbruttosa, abbruttosa la posso fare su io, già lo sai. E si conferma, allora, tu stai diventando abbruttosa, qua va bene. KK, KK, non c'è nessuno, l'ho appena acceso, eh. E la stessa cosa ti dico, appena acceso stavo facendo delle prove con sempre con quella cosa che tu sai. Vabbè, non c'è niente da fare. Invertendo il fattore il prodotto non cambia. Non cambia. Ci vuole quella cosa là. Vabbè. Metti un attimo la portante, cazzo, per parlare che. No vabbè, devo prendere una cosa. Non so se è da me, ma si sente un cru. Aspetta, provo a accendere l'altra radio, vediamo un po' se lo fa anche con l'altra. Guarda. Sì, uguale. Cappa. Sto usando quel cazzo di microfono là. Non mi dire che allora non è il fastidio. Prova a cambiare il microfono, così ci togliamo tutti i dubbi. Sì, aspetta. Ci sono delle nuove delle scariche. Non sta uscendo bene, non è chiaro la radio. Allora non lo sentivo solo io. Tappa. Va bene, dai, niente, continua con Natalino, già sono qua. Senza continuare con Natalino, se tu mi hai detto che non scende mai, allora me lo devi dire tu se non scende mai. Ciao Natalino, buongiorno. Questo va meglio? No, Cla, stai uscendo losco, come se fossi un po' in FM, sembra. E io ascoltandoti in AM. Adesso in AM sono. Avaggia sei du. Ho capito, ma cazzando du, motoreggi con 100 watt. Cioè potete dire, guarda che la modulazione è praticamente satura. Aspetta che cambio di nuovo microfono e aumentiamo qua. Ecco qua, allora sono 10. Ma adesso la radio già è la tua, già è bella ambrosa. Aspetta però che cambio microfono a Carini, perché devo essere sicuro, aspetta, eh. E forse era troppo la situazione, allora cambia microfono, che così ti ascolto. Allora, questo è il suo MC60, dimmi se va bene, o se ci sono rumori, o se mi ascolti male. Non c'è nessun problema, adesso sei perfetto. Forse eri troppo saturo poco fa, ma era una radio brutta pure, non solo satura. Adesso è chiara. Cappa di Rosmetro, va bene, allora ci siamo, vai. Abbiamo trovato il problema. Sì, era. Non mi sono accorto, stavo andando con 100 watt pieni. Cazzo. Quando uno è rincoglionito e sbaglia la scala, secondo te cos'è? Pensavo di essere in scala 10 ed ero in scala 200. può capitare alla nostra età, che siamo vecchi ormai e siamo un po' disattenti. Se ieri a me mi è capitato di avere il Machigain a metà, Gianni mi diceva che non amplificava il microfono e io non capivo perché cosa. Ho aumentato il microfono e amplificava, poi mi dico, io devo avere un Machigain a metà, è logico che non amplificava, capito? Adesso amplifica, adesso già il Machigain, anche se il microfono è a metà, dovrebbe amplificare qua. Alla grande amplifica, no, non c'è problema, va benissimo alla grande, va benissimo alla grande. Purtroppo vedi, la vecchiaia è carogna, sì, anche questo. Molte volte ci capita magari di toccare e non ci rendiamo conto che abbiamo toccato qualcosa. Ci conferma, vabbè, io comunque ho risolto il problema, va bene così, una potenza la mettiamo 20 watt, dai, ok, va bene, avanti tu, cosa dici Luca, mi stava spostando. E magari è impegnato, sta facendo qualcosa. Io, già va bene, quindi Natale mi conferma che sto a posto qua, dai. Sì, adesso sì, adesso è la mia radio, così è? Ega. Allora io andavo a vedere. E c'ho un microfono, un 60, che praticamente stava facendo le bizze. E allora gli ho cambiato l'interruttore sotto, adesso non lo sta facendo più. Pensavo che stesse nuovamente difettando. No, perché eri troppo alto e ti faceva quella situazione. Non effendi bizze, ah, vai andendi. E la potenza è troppo alta, no, mica che ce l'ha due e mezzo, come lo tengo sempre. Era praticamente la potenza che avevo sbagliato la scala. Ero sempre aumentando e riuscendo con 100 watt, l'importante non va bene. Infatti. E ci conferma, e va bene, e ci siamo anche qua. Mi ho fatto arrivare una base magnetica piccolina, con l'antenna bibanda piccolina, però è troppo minore, che è 7 giorni senza. Vai. Oh, signor. Sto aspettando che mi arrivi il tasto telegrafico, mi ha giubilato una braccata di coso, di BL, e mi sono già arrivato in domenica, mi hanno consegnato di BL. Di domenica, addirittura, cazzo, oggi è incozzato. No, vuol dire stanno lavorando anche di domenica. E guarda tu se c'è lavoro, se ce n'è un bel, vuol dire ce n'è un bel. Ehi, invece Guido mi ha mandato l'email che era in ferie e che saliva il giorno 13, ho preso un tasto telegrafico che mi serviva, lo xilofono me l'ho già fatto, va ogni volume, già è poco d'ovia, devo buscarmi una scatola dove metterlo. Oh, e allora, già va bene. Andà bene, mela. Una braccata di cose, di BL e bacchelite, ma giubiliando. Almeno mi posso fare l'ispezione mentre di doc. Il schivaggio, c'avevo quello dell'antenna che girava a vuoto. Il polo caldo mi girava... Girava tutto, ne ha giù subito cavato e ne ha giù bocciato un righi di vecchio, per adesso glielo cambio e glielo metto nuovo. No, la rottura di balle sono sti pielle qua, veramente. Nuovo gioco, se ogni volta è un casino, a volte vanno bene, a volte vanno male. Mi ero messo uno di quelli vecchi che ne avevo. Perché quello che gli avevo messo già era nuovo, però era di Teflon e girava, pareva Tisui. Infatti gli ho attaccato l'osmetro per essere tranquillo e così l'antenna, sono sicuro che sta andando bene. E ci conferma, andava bene. Così ce l'ho sempre sotto controllo, capito? chiama Giannaggio Biel. Mi ha fatto arrivare dal continente, tanto inutili. Io no, che non si può comprare più nulla. Ah, si può comprare anche. Ma anche qua c'è di palla, si può comprare. C'è un cari, cazzo, ma quando mai uno deve vendere un RG58, cazzo, a un euro al metro? A un euro al metro a me. A me a un euro al metro. Quando prima lo regalavano a 30 centesimi a metro, 50 centesimi, cazzo, a un euro e 20. Allucinante, ragazzi, infatti non li ho preso, perché abbiamo fatto il dipolo e abbiamo fatto di capo elettrico, volevamo fare di RG58, ma non li ho preso. Hai fatto bene a farlo di capo elettrico, da quanto l'hai messo il capo? A 2,5, perché si usa il lineare, così è a posto. Va bene, tarato il dipolo. Perfetto, 1,1 di stazionari a tutte le parti, monobanda per i 40 metri. E schirreggia forte pure. E allora sì, andiamo, cosa sai, RG58, cosa lo mettevi a fare? Tanto il dielettrico era finemi con l'RG58. O cosa mettevi? Calza e positivo attaccati per fare il dipolo. Ehi, ma una cosa del genere, ma comunque già, va bene così com'è, dai. No, no, è occhiellato, è occhielli, non viene di nulla, no, è occhielli. E hai fatto bene a farlo così. Cosa vanno bene? RG58. Potevi mettere anche un po' più grosso il cavo per se dovevi usare il lineare, ma da 2,5 non è fino, va. No, la 2,5 già va bene. Ehi, che aspetta. 5,5. Mia, Gianfranco che sta chiamando. Niente, no, ho messo così perché se magari do 500-600 watt, sono sicuro che no, di non si giugli nulla, capito? Sì, infatti, era per quello. E poi più grosso è e più larga la banda. Capito, più grosso il cavo è e più si allarga la banda. Vabbè, ma se mi stai dicendo che già è tarato 1,1 già va bene. No, no, tarato, tarato, a 7.000 tondi, tarato, perfetto, sino a 7.170 rimane 1,1, 1,2, non di più, Marco Maetto già va bene. E infatti, non c'è problema, lì c'è Gianfranco, lì, l'amico nostro. E già l'ho sentito, già l'ho sentito. Ma tanto io sono anche qua. Ah, allora sei furbile, un agguato, ieri. Ciao Gianfra, ben sentito, ben entrato. Buona domenica. Buona domenica a tutti, pace e bene a tutti. Ciao Gianfra, buongiorno e buona domenica anche a lei, ben entrato. Allora, Natralino, quando è? A ottobre, giusto? O no? O novembre? Novembre, il 18 novembre inizia. Uff. A quest'ora se mantenevano le date, se avremmo potuto anche dare una sussa, sia che se andavi bene sia se andavi male. E vabbè, aspettiamo, speriamo che vada bene. Dai, così ti diamo anche l'altra patente per il club. Il club degli anziani, vero Claudio? A te è arrivata a te quella del club dei rincoglioniti, a me sì. No, dei rincoglioniti no, c'è qualche problema. L'hanno subito mandata a BQE, che l'hanno anche proposto alla presidenza. E allora lo votiamo di brutto a BQE. Grazie carissimo Gianni, mi dispiace, pensavo mandarcelo a me la presidenza, invece l'ho mandata a lui, vuol dire lui è più rincoglionito di me. E in effetti sì, Ui, ui, ui. Già siamo messi bene. Vabbè, l'importante è stare attenti a non invertire i PL, perché se sono quelli comprati da una certa parte, capace che entrino anche all'incontrario. Ah, quello sì, io già me ne ho fatto arrivare un bel po'. e già c'è io e PL, così almeno posso fare qualcosa come si deve. E si conferma, già andava. Datemi 5 minuti, un attimo, devo uscire fuori e ritorno subito. Vai Gianfra. C'è anche Luca, mi pare, se non si è spostato. Luca Flipper. Oh, non ha ripreso. È evidentemente impegnato, magari stava facendo qualcosa, ed è per quello che si è ritirato, diciamo così. Magari già ci sta ascoltando, Mannaggia la miseria. E allora Nathalie, come si presenta? Ehi, come si presenta? Per il momento stiamo studiando e vediamo un po' come va la situazione. Molta gente non ci sta venendo, si sta perdendo per strada. Anche perché quando fa ascolto si rende conto che siamo in pochi, il gioco non va dalla candela, si stufano, loro pensano che sia tutto facile, ma non è tutto facile, perché poi devi combattere con tante cose, combattere, spendere soldi, rotture di scatole, più grande la stazione più rotture di scatole che ha, e quindi sempre lì siamo, capito? Ma io tengo duro, speriamo che la va. Tanto a te non è che ti costi granché, non devi andare a lavoro come altri che ci saranno che ancora lavorano, c'è tutto il tempo di farti le cose con la calma e per di più c'è il vantaggio anche che lo puoi fare da casa, cosa non indifferente. Ma ascolta, ma da te cosa c'è? La fibra ottica ti arriva? Ma cosa? Quella finta mi arriva la fibra, quella in rame, beh, dalla cabina qua è in rame, già è vicino, ma sta andando sugli 80, da prima era più di 100, adesso è sceso a 80. Ho fatto lo speed test, quella finta, fibra ottica Nisba. Qua non ne vogliono mettere, se no mi avrei messo quella vera, perché c'è la sovrintendenza che dice che non possono toccare qua. Non toccare lì, non toccare là, quando ne vara non c'è più niente da vincolare. Comunque vabbè, guarda, te ne bastano 10, io navigo anche con 5 a volte, quando c'è un tentaggiamento, però va sempre, l'importante è quello, può essere anche da 300, guarda come velocità, però se ti manca, quando ti serve, poi è un problema, come dire, meglio poco ma buono, cioè di lì l'importante è che sia costante e che non ci abbia interruzioni. Se no ti faccio certi casini che neanche ti immagini, quindi è meglio che sia fissa. Sì, c'ho quella della team, io pago un sacco di soldi, però mi avevano dato quella fino a 100, però a 80 va tranquilla, anzi mi hanno detto che sono fortunato in questa zona. E Natale, dicono così a tutti, poi certe cagate che combinano, vuoi guardare gli impianti che fanno, cioè mettersi la mano in testa, fili collegati di sì, vecchia maniera, no? E guarda, certi cablaggi che si vedono, è una vergogna. Comunque vabbè, l'importante è che sia costante, quando devi dare quella cosa, cosa utilizzi? Un portatile con telecamerina, tutte quelle cose lì, perché immagino che sia una videoconferenza. Certo, no, c'ho un desktop qua. Perché deve funzionare in maniera impeccabile. se no è un disastro. C'è la telecamera qua tranquilla della capicchia, si vede bene. Qua sta funzionando bene per il momento. Come diceva quello, speriamo che vada tutto bene senza vento. O con vento in poppa, come preferisci. L'importante è che riesco a darlo questo benedetto esame. E via. Già stiamo studiando, abbiamo visto che già ne sappiamo, anche da prima ne sapevamo. Tanto dura poco, penso una decina di minuti, 10-15 minuti durerà. L'importante è avere il silenzio intorno, spegniti abbassati il cellulare, quelle cose lì. In quei 15 minuti devi essere solo tu concentrato e boh. E infatti lo spengo il cellulare, mia moglie la mando via. Non ci deve essere nessuno qua, a parte che ti fanno girare la telecamera per vedere se c'è gente, capito? Perché c'è? Infatti. È così, è così. Quindi vediamo un po'. Beh, niente, 11:43. E tutto va bene. Mi Claudio già lo sa come si svolge la situazione, che l'ha visto da Roberto. Sì, ma si sarà mascherato in qualche modo. Magari si è travestito da appendiabito, non so, da armadio. Perché se aveva lui diceva no, ascolti, l'esame neanche lo facciamo bocciato. Infatti. Ma già lo sa lui come funziona. Ma vabbè, vediamo un po' come va, là. Gianfra, speriamo in bene. Adesso da 2 per le bande basse sono passato a 1, che ho avuto un problema nell'altro, in quello grigio. No, non ho capito, da 2 sei passato a 1. Quello grigio chiaro mi ha fatto un difetto. No, c'ha la potenza, c'ha i watt, c'ha tutto, però qualche condensatore deve essere andato a male. Già lo porto a aggiustare quello lì. Ma cos'è, HF? Sì. Ma è solito vecchiume, quella roba lì. Vecchio, Ma ce ne sono anche belli, ma belli così da tenere come soprammobile. Perché poi gli altri, cioè è sempre meglio avere qualcosa di un pochino recente. Mi auguro che non sia a valvole. No, a valvole. Non ne ho mai avuto a valvole. Mi sarebbe piaciuto averne qualcuno, ma... Perché ho visto come ricevono quelli a valvole. Confronto a questi, a queste cose qua che abbiamo adesso, ma me lo prendo uno nuovo, no? Mi piaceva il 7003 a me. È quello da parecchi punti a molti a valvole, perché sotto il profilo audio puoi fare tutto quello che vuoi, fa una bella regolazione, eccetera. Ed è un ottimo apparecchietto, perché c'ha tutto praticamente, tutto quello che serve, sia dal punto di vista dei segnali digitali, sia dal punto di vista anche di vedere le bande, tutta la situazione cioè davanti, non scappa nessuno. E quello lì mi piaceva, uno nuovo bisogna averlo, questi sono vecchi, no? Capito. Se mi danno quel pezzo di carta, vediamo un po'. tra l'altro non so neanche quanto costa adesso, dovrebbe essere diminuito, ne hanno venduto non so quanti milioni in tutto il mondo, forse è uno degli apparati più venduti. Vediamo un po' se quanto viene. Costava 1000 qualcosa, ma non, adesso non lo so. Vediamo un po'. Dice che l'hanno aumentato. Acqua lì. Ti immagini che... Allora, spesa gratuita, neanche ce l'hanno, è pure un arrivo. Figurati, 1230 euro. 1230. Vabbè, che cosa vuoi ti dica? A me piaceva quello. Questo prende a ratte. Tanto... quanto sarà un po'. Perché anche questi vendono a ratte poi. E si è a posto lo stesso. Sì. È che le ratte non mi piacciono. Capito? E quello è il discorso. Ma vabbè, vediamo un po', dai. Adesso pensiamo a prendere il pezzo di carta. Infatti. Poi se c'hai qualche roba, fai anche una permuta, non è che... Non è che cambi anche. Cosa metti come antenna? La verticale, di rosetto di polo. Non lo so ancora cosa fare. Non lo so. Metterò qualche di polo, boh. Vediamo un po'. E così almeno si vede. Due paletti, una a destra e una a sinistra. Ti interessa nazionale o internazionale il collegamento? Tutte cose, io voglio fare tutte cose, adesso vediamo un po' cosa riusciamo a fare, Gianfra. Tutto piano piano. Sì. Sempre tutto piano piano, sperando che vada tutto per il meglio. No, ti volevo dire, vabbè, non me lo ricordo più, pazienza, ma ho provato il tasto, mi dovrebbe arrivare, l'oscillofono l'ho già fatto, c'ha un volume bello veramente. Lo sei autocostruito? Eia, c'ha un volume bello, è uscito veramente bene. Con cosa l'hai fatto? N55. Eia. C'ho gli affari per regolare il tono e il volume. Bravo. Quindi un altro autocostruttore. Che stanno diventando veramente rari. Sì, l'N555 si presta molto. Ci metti il condensatore, quelle tre resistenze, o anche potenziometri direttamente, così te lo regoli. C'è una bella escursione di frequenza, non è stabilissimo, però insomma, per l'utilizzo che ne devi fare va bene. E poi c'è anche, può comandare anche dei bei transistor. In certi casi poi non c'è neanche bisogno. Infatti, adesso vediamo un po', tanto mi serve per, mi dovrò allenare perché è difficile, non è facile. Non è facile, è un bel po' difficile. Vabbè, guarda, se prendi il 7003 puoi operare facendoti le macro, ti fai il CQ eccetera eccetera eccetera eccetera, il problema è poi capire quando lui ti risponde, perché se vede che poi che sei molto veloce, quello ti risponde veloce, ma ci sono anche dei programmi, il 7003 si presta a tante cose con un programmino, riesci già a seguire quello che fanno, da dove sono eccetera eccetera. Prima devo imparare a ricevere bene, e poi basta non andare molto veloce, sennò chi tu ti risponde veloce non ne capisci più nulla. È così, anche questo, allora aspetta, credo che questo ce l'abbia il cifu, lo sai, però no, non so se funziona col microfono, ma non credo. Aspetta che ci provo. Poi neanche a balla, ci vuole tasto. E io perché me la sono comprato, se no non puoi fare nulla, perché per ricevere è un conto, però devi anche esercitarsi in trasmissione. A me piace quello verticale, piace. C'è una persona che riesce a capire chi è che sta trasmettendo, anche se non dice il nominativo, dal tocco che ha, nomi. Cavolo. Quasi tutti ci riescono, perché una volta che ti fai l'orecchio è come sentire un cantante, capito? Ti accorgi se è quello originale o quello fasullo. Allora, se trasmetti col computer se ne accorgono, è troppo perfetta la situazione. Direi proprio di sì, ci mancherebbe altro, no, che non sarà così essere. Io, Natalino, vediamo, chissà se mi funziona tutto questo. Io, c'è tanta roba a volte che non te la ricordi neanche a balla. Claudio, esci fuori. Claudio mi ha sentito trasmettendo in CV doppio e quindi lo sa che c'aveva un bel tocco. Claudio, io esci fuori, sempre mangiando stai. Quello in cucina girando il pentolone. Oi. Aspetta che sto regolando una cosetta. Dovrebbe essere questo. Boh, vediamo un po'. Ieri se n'è andato a Bono, lui e Walter se n'è andato, Claudio e Walter se ne sono saliti su, lì a Boccaio. Con esito negativo, perché continua a non funzionare, perché si spegne perché c'è qualche problema di collegamento dietro sicuramente alla radio, o meglio una radio, anzi una o tutte e due se le radio sono uguali, perché dietro c'è un connettore che dovrebbe avere un input di accensione, ma se non ce l'ha è ovvio che quando manca corrente poi lo devi avviare a manina, o se no se lo colleghi in un certo modo lo fa da solo. Dice che non accendevano automaticamente, capito? Peccato. Infatti è così. Ma un pochettino di venticello, anche oggi, sempre a quest'ora si mette il caldo. Le prende e attacca il caldo. E non c'è verso di fugarli. Cosa vuoi che ti dica? C'è la novembre, ne abbiamo. Di questo caldo? Sì, cacciolato. Siamo rovinati se tutto va bene. Appunto. Se dura fino a novembre c'è da spararsi. Ma non è già quello del corso? No. Come si chiama? Ti stavo dicendo, dice che c'era freddo ieri su, verso quelle parti dell'R0. Aspetta, non ti ho capito, Natalia, hai detto cosa c'era? Ha detto Claudio che c'era freddo lì, dove sono andati loro. Infatti, è meno male, almeno lì c'è freddo ogni tanto. Perché cosa? Mi sa che sto facendo casino, un attimino. Vediamo un po'. Qua funziona, di là non funziona. Qua funziona, di là non funziona. E io faccio così. E così siamo tutti contenti. Così ti impari. E per me sta venendo il raffreddore invece. Mannaggia. Natralino. E c'era il cane che stava abbaiando. Anche lui manda la spasso, se no poi dà l'esame lui e ti fa fare brutta figura, a lui la danno, a te no. A lui lo promuovono, sì, è intelligentissimo, a me mi bocciano che sono, oltre che tonto, anche rincoglionito, come ha detto, adesso mi arriva la patente di rincoglionito pure a me. Appunto. Aspetta, non so se riuscirò, però ci provo. Dimmi se capisci il messaggio, vediamo. Tutto poche cose, CQ, poi ha fatto attorno a quel rumore. Non lo so perché probabilmente c'è la trombetta, ma è strano che io non senta il ritorno, chissà cosa è successo. Capita. Non lo devi sentire, no? Lo stesso col tasto senti ta ta ta, però non lo fa la nota, capito, quando trasmetti. No, la nota forse la dovrebbe fare, non lo so. Ci riprovo, d'altro modo siamo anche in AM, però ci riprovo, vediamo, adesso non dovrebbe fare il patatà che dice prima, credo, non sono molto sicuro, vediamo. Prova 1, attacco 2, Sì, adesso sì che va. Hai fatto 2 CQ e poi mi sono perso. CQ è orecchio facile. Com'era? Tididi. Quella là, com'era? Oh, accidenti. Mi sono dimenticata anch'io. Da, no, di, no, la C è ta di da di, ta da di da, ed è CQ. Sì, ma è ta, è di, ta. dati. Quella è la C. Poi c'è tatatida, che è la Q. La Q ce l'ha, però, no, la punto. Sì, che ce l'ha il punto, la Q. C'ha due linea, punto. Ma io non l'ho fatto così, però. Allora non ho mai capito, già lo so. Allora non la fa così. Con la voce no. Il tasto invece è automatico, non sbaglio. E boh, non mi sembra che hai fatto più lunga. Vabbè, ma lasciate stare le cose come stanno. Io mangio patate sempre, mi piacciono molto le patate, perché se mi metto a mangiare la ragosta poi mi fa in mezzo ai denti. No, ti fa in mezzo alla dentiera, casomai. No, non agio dentiera io. Io ho 63 anni, un dente solo mi manca, ma perché me lo sono fatto togliere io. Gli altri, grazie a Dio, sono tutti i denti miei e sani buru, mi ci metto con le balle. Che lo sanno tutti, c'è la dentiera, vero Natalino? E allora? La dentiera, ti dico che ce l'ha, ma c'è dentiera io, i denti vanno curati, ogni 6 mesi vado a fare la pulizia dei denti, ma siamo malati qua, un po' mia moglie mi va, io e mia figlia, grazie a Dio, siamo messi bene. Vabbè, allora quando Natalino ha dato l'esame, per non farti vedere, Claudio, da cosa ti travisti, da sedia, da armadio, da appendiabiti, mi sa che è dato un po' nel lucchio, perché non ci sono le dimensioni, per non farti vedere. No, Roberto mi ha nascosto dietro la porta, ma mi hanno sgamato. Come mai? Per forza c'è quella svetro, la porta anche tu. Ah, sei un capo di bugnetta, girato la telecamera, aspetta che me ne esco, poi la giro, perché le hanno detto gira la telecamera, ci faccio la stanza vuota, e hanno visto a me che me ne stavo uscendo dalla porta. Quel signore che è, no, dice mio fratello sta uscendo fuori, però lo faccio uscire fuori. Rigiri di nuovo la telecamera, cazzo mi ha rotto le balle. Ma li hanno fatta girare anche altre volte durante l'esame? No, poi no. Si sono collegati, ma 10 minuti di orologio, 8 minuti di orologio ci ha messo, 8 minuti, poi si sono scollegati loro, ecco lei rimanga qua fermo, ci colleghiamo noi, si sono scollegati 5 minuti, è riapparso il presidente della commissione e ha detto lei ha passato l'esame idoneo per fare la documentazione per la patente della licenza. 8 minuti d'esame, 3 minuti di delibera, in 10 minuti vai tutto. Infatti, dato che è così veloce, a meno che non ci fosse solo lui, gli hanno inviato a novembre, per farne almeno 2-3. Non lo so, loro si collegano uno a uno e c'hanno gli appuntamenti, capite? Perché Roberto ce l'aveva a mezzogiorno meno 20, alle 11.40, quindi può darsi subito dopo di lui, ce n'erano altre 2, 3, 4, cosa ne so. No, io l'ho dovuto fare col comune invece. Col comune, e hanno detto che non mi vedevano, non ci posso fare niente. No, guardi, probabilmente dipende da noi, allora facciamo prima la telefonata, forse è meglio la telefonata. Mi hanno inviato i documenti perché almeno quello funzionava e io li ho mandati miei, quindi ho risolto così, perché adesso anche negli uffici pubblici è tutto tramite invio o ricezione, capite? Senza stare lì a fare la vira, a litigarsi lì con Natalino che sempre dice io sono arrivato prima, ma cosa? Sei arrivato dopo 5 persone, sai come sono questi anziani qua, no? Io mi ricordo solo quando l'ho data io a patente, quando ho dato l'esame io con la buona mettorella, dalle 8 rinchiusi in quella stanza, 120 eravamo, 120 persone nel 1992, per carità, giugno del 92, allucinante, 120 persone rinchiuse lì, 4 ore, capito? E non ti puoi muovere, lì c'è un problema, invece adesso è molto più sereno, eh. Chiusi a casa ufficiale di cui mangiano, quando arriviamo a Cagliari, un casino. Adesso diciamo che se uno veramente ha voglia di prendersela e ha studiato, è un rilassamento. Io dico, Roberto è rilassatissimo, 8 minuti ha fatto tutto, capito? Bianco, per me vado a fumare una cicca dopo, vai Natalino. Buona cicca, io pure sono sceso un paio di volte giù al sud. Sì, ma appena t'hanno visto t'hanno detto ma niente. Natalì, quante sono? 5 le domande, giusto? Sì signore. 5, di cui almeno 3 esatte. Così stavano dicendo. Oh, hanno chiamato il compito con la matematica, il coso, calcolare un cos'era, un circuito oscillante, il valore di non so che cosa, me lo sono pure dimenticato adesso. E anche a me mi avevano messo quel compito lì, le normative, cazzo, erano roba di 60 domande quando l'ho fatto io. Figurati, c'era il compito scritto, altro che noi. Appunto, così era tosta. E come l'ha fatto Claudio, l'ho fatto anch'io. Era così. E quelli che hanno dovuto dare anche il CV doppio. Cavolo. Io l'ho dato, infatti l'ho dato, ma mi è andata male perché ci voleva più preparazione, eccetera. L'ho fatto così, giusto per dire ci provo. Ma insomma, poi dopo qualche anno ci hanno passato automaticamente. E anche Claudio era il V-doppio e poi quando hanno eliminato il CV-doppio è passato di categoria A, adesso la patente di categoria B non esiste più. Infatti, vabbè, comunque, fatta è, oramai, su quanti anni sono passati. E neanche poi ti guardi le date e ti meravigli, dici ma è passato così tanto tempo, sì, è così. Ma cosa vuoi che ti dica Gianfra, purtroppo è così. Adesso vediamo se ne togliamo piede, da diciamo così. Quindi penso che molta gente non ne faccia esame, a parte che il 30 deve arrivare a Cagliari entro il 30 la domanda, e non ne ha spedito nessuno, solo io l'ho spedita. Quindi vedete, ma penso, cioè con 5 domande, guarda, è il minimo del minimo del minimo sindacale, proprio della serie, a tutti i costi te la voglio dare, quindi non credo che ci siano difficoltà. Le normative le so tutte, codice Q lo stesso, quello fonetico anche, adesso l'elettronica, già ne so, non è che non ne sappia. L'altro giorno abbiamo fatto le valvole, semiconduttori, FET, MOSFET, sappiamo il gabbo di Gosa, ma io già me le ripasso per conto mio, pure non è che sto a quella lezione lì solo. Vabbè, ma penso anche lì saranno abbastanza larghi di manica, certo se me lo hai spiegato, anche con 5 domande si potrebbero mettere in seria difficoltà, perché Ma io penso che si limiteranno oramai a anche le cose banali, che ne so, io farei la domanda, mi dica un transistore da quanti, che ne so, una classe BC 508, quanti piedini hai, mi elenchi il nome di tutti e tre i piedini, ti ho detto anche quanti sono. PNP, NPN, quelli lì, sapete, dice? Sì, però mi devi dire, dato che ho detto il numero, di quanti tipi possono essere, cioè in la successione di questi pierini, e cosa succede se cambiano di tipo, diciamo, dai. Se no ti dico tu. Emettitore, base e connettore. La terza non ho sentito. Emettitore, base e connettore. Vabbè, non è esattamente connettore, è collettore. E collettore. Dai, già le sappiamo quelle cose. Lo so, ma caro candidato, io non so se tu lo sai, perché se mi dici collettore, cos'è un collettore di rubinetto, un collettore del turbino, no? Il connettore è un'altra cosa, cos'è un collettore? Se li invertiamo, cosa succede? Anzi, non se li inverti. Mi dica la signoria vostra di quanti tipi ne abbiamo? Due tipi ne abbiamo, quelli che ti ho detto poco fa. E quindi dimmi le successioni. NPN, PNP. Così va molto meglio. Non lo dare per scontato, non commettere l'errore che fanno molti in esame e dire le cose per scontate, rispondono in fretta e tu conta fino a due prima di rispondere, rifletti su quello che stai dicendo e poi spari. Anda bene Meda, e tanto sono tutte cose che mi devo ripassare, le resistenze in serie, in parallelo, tutte quelle cose lì abbiamo fatto, abbiamo iniziato dall'atomo praticamente fino a dove ti ho detto io. Infatti. Certo, se volessi essere cattivo ti potrei dire, mi dica normalmente un BC 508 che dovrebbe essere, se non ricordo male, NPN, quanto c'ha di guadagno medio? Aspetta un attimo che ce l'ha 50. Ma che si sta giocando? Ma finiamo di giocare? Su. Gianfra, purtroppo devo mollarti che qua bisogna aiutare la 50, se no si rompe le scatole. C'ha ragione, questo la devi metterti a girare col mestolo la pappa, se no non si magna. Anch'io devo andare, mi hanno chiamato. Troppo che pronto. Ciao Natalie, buon pranzo. Altrettanto, grazie per le quattro chiacchiere Gianfra, le Prusse. Ciao anche Claudio, tu più che sigaretta stai fumando un sigaro, ciao. Vabbè, qua ma ce la to via. Egitto! Sto apparecchiando che mia moglie gli ha girato di rompere le scatole. Gianfranco se n'è andato, che anche lui l'hanno chiamato. Ci sto preparando per il pranzo, là. E io andavo, dai, ci aggiorniamo stasera allora. Buon pranzo a tutti, anche a voi, ciao. Ciao, Claccia.